Io sono qui. Voi siete qui. Di Matteo Caccia. Per i primi 20 minuti tutto bene. Svoltiamo a sinistra. E in quel momento spuntano due persone dal baule della macchina. Mi prendono per il collo e iniziano a urlare di stare tranquillo e di abbassare la testa. Ecco, in questo preciso istante ha inizio il mio primo e fino ad oggi unico sequestro. Mi chiamo Maurizio Fracchetta, ho 39 anni, abito in Andorno Micca, un paese vicino alla provincia di Biella, e sono artigiano e spesso e volentieri per lavoro viaggio all'estero. La percezione del rischio varia da città a città, da persona a persona e anche all'interno dei generi, no? Cioè, maschi e femmine hanno una diversa percezione del rischio, soprattutto quando camminano a piedi nella propria città. Cominciamo così, subito forte, proprio senza neanche dire ciao oggi, perché è arrivato questo racconto di Maurizio, che parla... Si intitolava, mi pare, proprio il racconto, il mio primo sequestro di persona. Che non, quando l'ho letto non capivo se era stato lui a sequestrare o se era stato sequestrato, e soprattutto se ce ne erano stati altri poi di sequestri di persona. È un racconto interessante, anche un po' inquietante. Poi non è esattamente il sequestro di persona che immaginiamo noi, ma a breve sentirete meglio la storia. Però ci è venuto veramente da chiederci e da chiedervi qual è la percezione del rischio che avete nella vostra città o una città in cui siete stati, e qual è la città più pericolosa che vi ricordate, che vi ha dato la maggiore sensazione di rischio e di pericolosità. 349-238-6666, ma anche voi siete qui, @radio24.it e il profilo Facebook ovviamente, Matteo Cacci, che sono qui. Tra l'altro, ravanando proprio adesso al volo, prima di andare in onda, ho trovato che qualche mese fa il Sole 24 Ore ha fatto un'analisi riguardo alla città con più reati in Italia, ed è Milano. Milano è la città con più reati in Italia, si parla di 275.000 reati denunciati, detiene il poco piacevole record anche per quanto riguarda l'incidenza dei reati rispetto alla popolazione, cioè 6.700 ogni 100.000 abitanti. No, perdonatemi, 7.000, 6.948, 7.000 ogni 10.000 abitanti. E poi c'era un altro dato però che mi incuriosiva, eccolo qua, Rimini è la seconda provincia d'Italia per incidenza dei reati denunciati in rapporto alla popolazione. Paolino, lì dalle tue parti, Senigallia, la provincia di Senigallia è più giù, è Ancona. Lo so che non è Rimini, però non siete lontanissimi. 349-238-6666. Giorgio, io sono di Ancona. Si parla di Ancona. Quando sono andato a vivere a Taranto per studiare, la cosa che tutti mi dicevano era che Taranto aveva il più alto tasso di criminalità del paese. Ho vissuto i primi mesi chiuso in casa, togliendomi l'orologio quando camminavo per strada. Questa è una delle robe che si fa: togli l'orologio. Almeno che tu ci abbia lo Swatch, togli l'orologio. Ci ho vissuto 5 anni e non mi è mai successo niente. Sono tornato ad Ancona un anno fa e mi hanno rubato la macchina. 349-238-6666. Sandro, ho vissuto a Cartagena per lavoro, che non è lontano, perlomeno nella mia mente priva di fantasia e di geolocalizzazione, non è lontano da Lima, più o meno, dove si svolge il racconto di oggi. Cartagena e Colombia, certo, Lima e Perù, quindi non c'entra veramente niente. Sandro, ho vissuto a Cartagena, è un posto incantevole, ma la notte è come se calasse una coltre di silenzio e di paura. Davvero non riesco ad immaginare una città con due facce più diverse di quella. Quando però impari a conoscerla, giri solo per le strade che sai di poter frequentare, e comunque ci tornerei anche subito se potessi. 349-238-6666. Si parla di città, o meglio, più che di città, della percezione del pericolo in una città, che sia la vostra o che sia stata una città che avete frequentato. Questa è la storia di Maurizio ed è ambientata a Lima. Anno 2005. Non ricordo il giorno e neanche il mese. Sono a Lima, in Perù. Ci vado spesso per lavoro. Dopo essere stato per tutta la giornata in mezzo al traffico per visitare clienti, rientrando in albergo ricevo una telefonata. Un'amica mi dice che c'è una cena di compleanno e mi chiede se ho voglia di accompagnarla. Gli rispondo, claro che sì. Sono di buon umore e penso, oggi è il mio giorno fortunato. Ci diamo appuntamento alle 9. La cena è prevista per le 10. Il ristorante scelto si chiama Rodrigo, in pieno centro in Miraflores, un distretto residenziale di Lima. È la prima volta che ci vado. Il ristorante è un po' troppo sfarzoso, non ricordo neanche di aver mangiato niente che abbia colpito la mia attenzione. Noi arriviamo puntuali, ma al ristorante siamo i primi. In effetti, si sa, la chiamano la famosa ora peruviana. I peruviani hanno questo difetto. Ti dicono un'ora, ma in realtà loro stanno già pensando, organizzando e considerando che se ti dicono che l'appuntamento è alle 10, in realtà l'appuntamento sarà per le 11. L'idea era rimanere a Lima a vivere, poi questo lavoro qui è saltato. Il nostro mercato principale è lì a Lima, per cui per quello che passo molto tempo a Lima. E la cosa che odio di più del Perù è definitivamente l'ora famosa peruviana, che è sempre un'ora dopo a quando ti fissano l'appuntamento. La serata scorre serena, divertente. E intorno all'una di notte la gente inizia ad alzarsi per ritornarsene ognuno nelle proprie case, anche perché il giorno dopo si deve lavorare. Così anch'io, con la mia amica, decidiamo di salutare la festeggiata e usciamo dal ristorante contenti e felici. Decidiamo di camminare un po'. Entriamo nella Avenida José Pardo. Camminiamo due o forse tre quadre, quello che gli inglesi chiamano blocks. Quella è una delle vie principali di Miraflores, con doppie carreggiate per ogni senso di marcia. Al centro un viale pedonale con una distesa di alberi e molto verde per dividere i due sensi. Decidiamo di attraversare la strada e iniziamo a camminare, giusto per fare ancora due parole e intanto smaltire parte della cena. A un certo punto però decidiamo di prendere un taxi. L'idea è di riaccompagnarla a casa e da lì tornare in albergo. A Lima dovete sapere che se vuoi fare il tassista è molto semplice. Compri un cartello che dica taxi, una macchina e il gioco è fatto. Sei a tutti gli effetti un tassista di Lima. La gente ti vede, ti riconosce, ti ferma, ti dice dove vuole andare. Tu gli fai la tua tariffa, se il prezzo è giusto hai appena guadagnato un nuovo cliente. Funziona così. Per cui a quel punto, quando decidiamo di prendere un taxi, io mi giro verso la strada, arriva la prima macchina con la scritta taxi, è una macchina giapponese, una familiare di colore bianco, che si ferma. Gli dico dove voglio andare, lui mi dice 16 soles. All'andata, dall'albergo a casa della mia amica, il tassista di soles me ne aveva presi 25. Il mio sesto senso mi dà per 5 secondi un input, una di quelle sensazioni che a volte capitano nella vita. Il campanello di allarme che ci vuole avvisare che c'è qualcosa che non va. Purtroppo però non voglio fidarmi. Penso che la corsa è più veloce probabilmente, di conseguenza il prezzo è migliore. Apro le portiere, saliamo in taxi e il taxi parte. Ci accomodiamo nella parte posteriore dell'auto e iniziamo ad andare. Alla guida c'è un ragazzo giovane, cappellino in testa. Per i primi 20 minuti tutto bene. Stiamo per arrivare a casa della mia amica, svoltiamo a sinistra e in quel preciso momento spuntano due persone dal baule della macchina. Mi prendono per il collo e iniziano a urlare di stare tranquillo e di abbassare la testa. Ecco, in questo preciso momento ha inizio il mio primo e fino ad oggi unico sequestro. It all starts with the pad and pen. Shall we begin to burn bush in this rap session? Once again on the run, be the black stallion. Now you fucking with the galleon. Iron lung, boy, me can done. Army of one, blaze your bun. I'ma get you none except challenge. Ha, run a mile with a racist. They iced it, I aced it, placed it right up in their face till they faced it. Hard to the dome like a chrome microphone. I'm bad to the bone, danger zone. That's my life and my song. Keep it moving. Hop alone, little dog is. Sono spaventato, frastornato e stanco. In un primo momento penso che le due persone, approfittando del fatto che il veicolo aveva diminuito la velocità per affrontare la curva, si sono lanciate nel baule della macchina. In realtà, 10 secondi dopo, mi rendo conto che l'autista è complice dei due rapinatori e che le due persone sono semplicemente state nascoste nella parte posteriore dell'auto, aspettando il momento ideale per attaccare. Sono consapevole che la vita mia e della mia amica valgono molto di più di qualsiasi cosa. Per cui, nel momento in cui i due rapinatori iniziano a spogliarmi delle mie cose, portafoglio, orologio, braccialetto, catenina, da parte mia non c'è alcun tipo di resistenza. Cerco solo di manifestare una piccola protesta e mentre lo faccio guardo il guidatore che ho davanti a me. Lui però si arrabbia così tanto che mi mostra la pistola e mi minaccia. Se continuo a guardarlo, mi spara. La mia amica intanto si è rannicchiata su se stessa. Le hanno preso la borsa e rovesciato tutto il contenuto. La macchina continua ad andare. Intanto stiamo lasciando la zona residenziale di Lima, verso zone sempre più buie della città. Non ho mai avuto una forte paura che fossi in pericolo, no? Poi in futuro amici che sono sul posto mi hanno poi informato, mi hanno detto guarda che questa gente qui a volte è sotto l'effetto della droga, sotto l'effetto di alcolici, per cui magari ti sparano e loro non se ne rendono neanche conto. Uno dei rapinatori mi domanda com'è possibile che non abbia con me le carte di credito. Mi chiede continuamente dove le nasconda. In realtà non le ho con me, così come non ho con me il cellulare. Il problema di questi sequestri lampo è dovuto dal fatto che spesso i rapinatori sono sotto l'effetto di qualche droga o magari ubriachi, per cui c'è il rischio che parta un colpo di pistola senza che neanche se ne accorgano. In più, se ti trovano con una carta di credito, il sequestro non è più lampo. Vieni trattenuto per diversi giorni, questo per poter diluire nel tempo la quantità massima di denaro prelevabile giorno per giorno. Sulla strada percorsa a un certo punto incrociamo nella stessa direzione di marcia una pattuglia della polizia. E io ricordo di aver pensato che avrei potuto lanciarmi contro il guidatore, strappargli il volante dalle mani e fare in modo di scontrarmi con la macchina della polizia. Tipo Bruce Willis in Die Hard. Fortunatamente non lo feci. L'ultima paura che ricordo però fu quando iniziai a rendermi conto che a questo punto, dopo che ci avevano rubato tutto, dopo che avevamo percorso più di 80-100 chilometri da dove ci avevano prelevato, chi veramente poteva essere in pericolo era la mia amica. E la domanda che mi facevo era che cosa avrei fatto nel caso in cui avessero cercato di fare del male. Intanto arriviamo in un punto a noi completamente sconosciuto, in una zona buia. Mi puntano la pistola alla testa e mi ricordano che sanno il nome del mio albergo, che hanno i miei documenti e che se li denuncia la polizia, loro mi vengono a cercare. Ci fanno scendere. La mia amica resta senza scarpe. L'auto si allontana. Rimaniamo pietrificati per 5 minuti. Poi in lontananza vedo delle luci e un cartello che dice Hostal. Camminiamo fino ad arrivarci. Spiego velocemente l'accaduto e chiedo cortesemente di chiamarci un taxi. Spiego al tassista che sono senza soldi e senza documenti, perché ci hanno appena derubati. Devo riportare la mia amica a casa e da lì tornare al mio albergo in centro. A quel punto posso prendere i soldi e pagarlo. Lui accetta. Tempo dopo la polizia locale mi confermò che dopo 60 minuti quello che mi era successo non era più da considerarsi rapina, ma sequestro di persona, un reato molto più grave. Mi chiesero se volessi sporgere denuncia, ma in realtà tutto quello che ricordavo l'ho scritto in queste poche righe e decisi che non ne valeva la pena. Mi rimase per qualche mese la paura di salire in taxi, sino a quando decisi che era il momento di comprarmi un'auto tutta mia. Ora vivo e lavoro a Lima, mi sposto con la mia automobile, non uso taxi e faccio molta attenzione a non essere abitudinario. Nel frattempo ho iniziato a raccontare l'accaduto ai miei genitori. Dopo tanto tempo non l'avevo mai fatto prima, semplicemente perché non volevo che si preoccupassero. Oggi ho finito di scriverlo e ne ho parlato con loro a pranzo. Mi hanno capito. E comunque siamo convinti che oggi vivere a Lima non sia più pericoloso che vivere a Milano o a Roma. For everything that I had, it kicked me out of my own. Are you happy? Are you satisfied? How long can I stand the heat? Out of the way, the bullets rip to the sound of the beat. Alexandros, sono greco e vivo in Italia da 10 anni. La mia città è Atene e non è mai stata una città insicura o pericolosa, ma da un anno a questa parte, da quando le cose sono precipitate in città, la città mi fa molto più paura. La sensazione è quella che tutti si possano approfittare di tutti per il solo motivo di sopravvivere. Spero che risorga presto. Lo speriamo tutti, Alexandros. Però torniamo al racconto di Maurizio, perché appunto non capita spesso di ricevere un racconto, visto che io chiedo episodi piccoli, episodi minimi della vostra vita, un racconto in cui si racconti di un sequestro di persona. Pronto Maurizio? Sì, ciao Matteo. Ciao, buongiorno, come stai? Tutto bene, grazie. Tutto bene? Io tutto bene, tutto bene. Senti, dove ti trovi esattamente in questo momento? Adesso sono nel mio paesino, qui ad Andornomicca. Che è provincia di Biella, giusto? Provincia di Biella, esatto, sì. E appunto si sente anche un po' dal tuo accento che è... In realtà il biellese non si capisce bene, perché è a metà tra il piemontese, quello vero, e il paralombardo di noi novaresi. Sì, siamo a 80 km da Torino e a 100 da Milano, quindi un po' così, siamo a metà strada. Senti, allora facciamo un passo indietro. Prima di andare a Lima direttamente, mi spieghi esattamente che cosa fai che ti porta da Biella al Perù? Beh, qui bisogna ringraziare un po' il papà, perché nel lontano 84-85 lui, pioniere, è partito, è andato a cercare nuovi mercati. Noi abbiamo una piccola officina meccanica, facciamo macchine tessili, chiaramente di Biella, non è che ci possiamo spostare. Quindi lui era andato giù nell'84-85, aveva iniziato andare a visitare insomma il paese, poi aveva trovato dei clienti e nel 99 abbiamo aperto anche là un'officina meccanica come quella che abbiamo qui. Quindi costruite, come si chiamano, gli impianti? No, in effetti non costruisco, no, compro le macchine usate, quelle che sono sul mercato, noi abbiamo l'officina dove vengono poi revisionate e poi consegnate al cliente, poi dal 99 con l'officina che abbiamo anche là diamo anche servizio di post vendita. Cioè siete come quei concessionari di auto che vendono usato sicuro, no? Che dai la garanzia per un tot di anni, robe del genere? Esattamente, è quello che noi che cerchiamo di trasmettere al cliente, insomma rimaniamo lì e cerchiamo di appoggiarlo anche in tutte le varie... Quindi... Te l'hai, giusto? Te l'hai i tessi lì o sbaglio? No, io faccio più macchine per la filatura, quindi tutto quello che è preparazioni, filatoi, roccatura. E come vanno le cose in Italia? Meno male che papà nell'84-85 ha avuto questa grande idea, perché sennò credo che già 5 anni fa avevamo chiuso. Cioè, meno male che c'è il Perù, quindi. Sì, no, definitivamente. Cioè, quant'è il Perù del vostro lavoro? L'80%? Sì, beh, noi facciamo un po' tutto Sud America, no? Adesso abbiamo anche clienti in Uruguay, Brasile, però principalmente il Perù è sempre stato un po'... È il primo paese dove papà è andato, è il primo paese dove ci siamo innamorati, e poi, come ti ripeto, avendo l'officina anche là... Chiaro, avete di fatto come... una sede là. Invece tipo nei dintorni di Biella più niente, tutto Perù. No, tutto Perù. Qualcosa l'anno scorso a Prato, così, proprio per una roba sporadica. Immagino. Sì, senti, sì, quindi sì. Da quant'è che lo frequenti Lima e Perù? Io credo di essere andato giù la prima volta nel 92-93, finita la scuola, così forse papà mi aveva portato così per conoscere, da lì abbiamo iniziato poi a andare più spesso. Quindi la conosci bene Lima, la città? Adesso la conosco molto bene, io adesso però negli ultimi 2 anni, anno e mezzo, 2, praticamente vivo là, adesso ho una casa, una fidanzata, 2 cani, ogni tanto... È più il tempo che vivi là che non quello che vivi... Sì, anche per una questione di lavoro, dico, perché è un po', adesso Lima è, non so come dirti, come... 15 anni fa qui a Biella, quindi c'è anche un lavoro. Insomma. No, scusami, aspetta, mi fa ridere che Lima, che Lima è Biella 15 anni fa. Mi immagino che abbia un po' più di abitanti Lima, no? Almeno. Un'altra cosa che a me piace è quella, che io soffro quando vengo qui a Biella, è proprio quella. Cioè, nel senso che l'infrastruttura che può avere una città come Lima, che ha 8 milioni di abitanti, è quando ritorno qui a Biella, che siamo in 55.000, insomma... Sì, lo immagino. Senti, però mi dicevi che di fatto non ti è rimasta la paura dopo quello che ti è successo. No, non ricordo, anche se poi ti dico magari è una protezione naturale che fa la mia mente, quindi magari ha rimosso certe cose, però non ricordo di aver avuto la percezione di essere stato in pericolo o cose di questo tipo. Beh, però scusami, non capita a tutti nella vita di avere una pistola puntata contro? Ecco, io mi ricordo quella cosa lì, mi ricordo che io guardavo in questo specchietto retrovisore il guidatore, no? E allora lui a un certo punto si è proprio arrabbiato, e allora mi ha minacciato con questa pistola dicendomi di tenere giù la testa e di non guardarlo più, perché sì. Non ti è mai più successo nient'altro lì, ma anche solo... Fortunatamente sono stato, adesso faccio molto più attenzione, perché prima il problema era che... Scusa, c'è qualcuno che ti vuole, mi sembra, Maurizio. No, sono qui a casa con la mamma e forse non aveva capito che stavo parlando al telefono. Saluti alla mamma. Saluti alla mamma. Senti Maurizio, ti ringrazio tanto, in bocca al lupo per tutto, buon viaggio e grazie ancora. Grazie a voi, grazie Matteo per la chiamata. Buona grazie. Giornata, ciao. Buona Maurizio. Giornata. Ciao, ciao, grazie. Prima della borsa c'è un messaggio di Antonio che parla di New York. Dice: New York è una città in cui avevo paura ad andare perché ero cresciuto guardando i Guerrieri della Notte, chi no? E avevo il terrore di incontrare bande di gente in gilet di pelle che si scaldava attorno a fuochi improvvisati per strada. Ora che ci sono stato, mi sembra la città più sicura che ci sia. Guerrieri! Giochiamo a fare la guerra? Guerrieri, giochiamo a fare la guerra. Guerrieri, adesso vi rompiamo il cranio. Voi siete qui. C'è anche la data nella foto che ci ha mandato Maurizio, che trovate alla solita pagina di Voi siete qui sul sito di Radio 24. Sapete quella data digitale che appare in calcio alle foto? 18 gennaio 2012. Che però è impossibile perché è in camicia. Perché sarà a Lima, probabilmente. È in maniche di camicia perché è a Lima. E quindi là è al contrario la stagione. È su un prato, in maniche di camicia, abbracciato a un pastore tedesco che ha detto, Maurizio, ha detto alla nostra Margherita essere il suo amato cane Rex. L'ha chiamato Rex, veramente. Siamo sicuri che sia Rex. Comunque, va bene, l'ho descritto, ma ha una faccia simpatica. Ha proprio la faccia di Biella. Avete presente la faccia di Biella? Ecco, c'ha una bella faccia di Biella, tanto quanto io ho una faccia di Novara, più o meno. E tra l'altro mi ha scritto un messaggio Eva, un SMS al 349-238-6666, come potete ben vedere. Sono di Novara e ho vissuto tra Roma e Torino. Eppure non so come, ma nella provincia c'è qualcosa che mi spaventa. Guarda, Eva, non so come neanch'io, ma capisco quello che dici. Pietro, sono rimasto traumatizzato da Istanbul. È una città splendida, ma mi ci hanno rapinato 2 volte in 3 giorni. Vabbè, questa però è sfortuna. Dai, non posso credere. È chiaramente sfortuna. E poi c'era un altro messaggio invece. Sara, io sono di Palermo, ma vivo a Napoli. Questo è su Facebook. Sono due città che si somigliano molto, Palermo e Napoli, per lo splendore e la decadenza. A parte qualche scippo occasionale, non mi è mai successo nulla in entrambe, però tutte e due mi fanno un po' paura. Napoli perché la violenza è molto esposta ed è quasi gridata, Palermo perché la violenza è sotto traccia, come controllata ma sempre pronta ad esplodere. 349-238-6666. Questo riguardo città italiane. Invece prima si era parlato di New York, avevamo chiuso la prima parte, giusto? Parlando di New York per il messaggio di, mi pare, Antonio, con quel pezzo magnifico dei Guerrieri della Notte. Guerrieri, ma quello cos'è? È il finale? Voi vi ricordate che cos'è? Quando c'è quel tizio lì con le bottiglie? Ah, è proprio l'inizio quello. Che sono credo a Long Island. A Long Island, sono a Coney Island. No, secondo me è il finale. Vabbè, se vi ricordate 349-23. No, non è la Dunata, ti sbagli. È quando arriva questo tizio in macchina lungo la spiaggia e loro sono nascosti. Alla fine, credo sia proprio la fine a Coney Island, a Brooklyn. 349-238-6666. Se vi ricordate qual è il finale, in quale parte, se è il finale o l'inizio dei Guerrieri della Notte. Parlando di Brooklyn, però, giusto perché siamo a Brooklyn. Vabbè, se siete stati a New York di recente, saprete che appunto New York non è una città pericolosa. Al massimo vi raccontano, in qualsiasi zona andiate a New York, vi raccontano, fino a 10 anni fa, qua non potevi girare. Ovunque, che siate Lower East Side, Upper East Side, no, magari siete vicino a Central Park, no, però da Central Park in giù, fino a 15 anni fa, qua ragazzi, cioè, era un disastro. Mi ricordo, sono stato per un periodo in quella che è chiamata Alphabet City, che è la parte est dell'East Village, per cui si dice che Madonna vivesse ad Alphabet City quando, e che fosse una roba terribile. Si divide per avenue A, B, C e D. La più lontana è la D, cioè quella vicino all'East River, e lì ancora adesso ogni tanto ti dice mi ricordo benissimo quando arrivai alla dogana a JFK, c'è il tizio che ti chiede perché sei qui, eccetera eccetera, e quando gli diedi l'indirizzo, perché stavo in una bed and breakfast proprio in Avenue C, cioè nella strada C di Alphabet City, lui mi guarda e mi disse: "You don't wanna go there." Tu non ci vuoi andare là. E io non capivo nemmeno cosa volesse dire. Sì che ci voglio andare, c'è la mia bed and breakfast. Mi fece una faccia strana. Non succede niente, veramente, non succede niente a New York. A meno che non si sia a New York negli anni 70, non si sbagli strada e non si finisca a Brooklyn. Voglio leggervi un pezzo che è tratto da un libro meraviglioso, che è Il Falone delle Vanità, di Tom Wolfe, che parla di questo mega personaggio che è il protagonista. È un uomo straricco, è un uomo potentissimo, che gira per Manhattan come se fosse il padrone, ma una sera sbaglia strada e finisce in una specie di deserto infernale. Sherman gettò un'occhiata a Maria. Stava seduta immobile nella sua stupenda giacca blu. I folti capelli scuri e lucenti incorniciavano un viso gelido e immoto, come quello di una fotografia. Sherman accelerò e lasciò il sinistro avamposto nel deserto. Voltò in direzione di alcune case. Passò davanti ad abitazioni senza infissi alle finestre. Arrivarono a un piccolo parco con una recinzione in ferro. Lì si poteva girare a destra o a sinistra. Le strade avevano tracciati irregolari. Sherman aveva perso del tutto l'orientamento. Ormai la città non pareva neanche più New York, ma piuttosto una piccola città del New England in disfacimento. Girò a sinistra. Davanti, lontano, vedeva il chiarore giallastro, confuso, di quella che sembrava una strada più ampia e meglio illuminata. Più si avvicinava e più gente c'era sui marciapiedi, sulle soglie delle porte, sulla sede stradale. Quante facce scure. Più lontano c'era qualcosa sulla strada. I suoi fari erano annegati nel buio. Poi riuscì a vedere. un'auto ferma in mezzo alla strada, lontano dal marciapiede. E un gruppo di ragazzi in piedi tutto intorno, altre facce scure. Era in grado di aggirarli. Premette il pulsante che bloccava le portiere. Il click elettronico lo fece sobbalzare, quasi fosse il rullo di un tamburo. Rallentò. I ragazzi si chinarono a guardare dentro i finestrini della Mercedes. Con la coda dell'occhio vide uno di loro sorridere, ma non disse una parola. Guardava fisso, con un sorrisetto maligno. Grazie a Dio c'era spazio sufficiente. Sherman proseguì lentamente. E se gli si bucava un pneumatico o si ingolfava il motore, sarebbe stato un bel guaio. Ma non si sentì sconcertato. Era ancora in sella. Continua a marciare e basta, è quel che conta. Una Mercedes da $48,000. Avanti, tedeschi del cavolo, Panzer, inventore di macchine dal cervello d'acciaio, fate il vostro dovere. Superò l'autoferma. Più in là, una strada importante. Il traffico era abbastanza sostenuto in entrambi i sensi dell'intersezione. Si rilassò. Ce l'aveva fatta. A destra, a sinistra. Non aveva importanza. Arrivò all'incrocio. Il semaforo era rosso. Beh, al diavolo. Proseguì lo stesso. Mary had a little lamb. That's a fib. She had two twins, though, and one crib. Now she's only 14. What a start. But this effect is crowned common in these parts. Now life in this world can be such a bitch, and dreams are often torn and shattered and hard to stitch. Negative the attitude that runs the show when the stage is the G-H-E-T-T-O. Which is the one to blame when bullets blow? Either Peter, Jane, or John or Joe. But Joe can't shoot a gun. He's always drunk, and Peter's pimping Jane, and John's a punk. Il pezzo che vi ho appena letto è tratto da Il falò delle vanità di Tom Wolfe. Se leggete questo libro, proprio di qui a poco, appena dopo le parole che vi ho letto, succede qualcosa che farà inclinare il piano su cui il protagonista Sherman McCoy si trova, e la sua vita andrà lentamente verso il declino. Va lentamente verso il declino anche la puntata di oggi, soprattutto quando ci si impappina così, pronti via in diretta e in finale, grazie a Paolino Corleoni, a Tiziano Bonini e a Margherita Ina. La storia di oggi era la storia di Maurizio e parlava di città pericolose, la storia di domani è la storia di Luciano e parla di libertà. Guardo le facce della gente che incontro camminando. Vedo nei loro occhi stanchezza e preoccupazione. Pensavo di incontrare persone più felici di me, e invece mi sembra di no. Io per oggi mi sento felice e pieno di entusiasmo, e non ho proprio voglia di farmi rovinare il mio primo giorno di libertà.